alla mostra Emiliano Mancuso, una diversa bellezza, Italia 2003-2018, al Museo di Roma in Trastevere, dal 13 giugno al 6 ottobre 2019. Con noi Emiliano Mancuso, regista del documentario Il Diario di Felix. Emiliano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi per l'invito, ovviamente. Allora, per chi ci ascolta, diciamo subito di cosa si tratta, cos'è questo Diario di Felix? È la storia di due ragazzi italiani insieme ad un ragazzo egiziano che compiono i loro 18 anni all'interno di una casa famiglia invece che nelle loro famiglie vere e proprie. È un racconto di un anno ed è la mia esperienza insieme a loro. L'idea come è venuta fuori? L'idea è venuta da inizialmente un progetto fotografico, io sono un fotografo ed è iniziata così, poi il rapporto si è piano piano approfondito, trasformato, ad un certo punto mi sono reso conto che le fotografie non bastavano a raccontare la complessità della vita di questi ragazzi, quindi ho sentito proprio il bisogno di mettere la parola, di fatto di cominciare a farli parlare, e da lì poi è diventato piano piano un documentario, ma è veramente un lavoro nato facendolo in qualche modo. Come sono intanto le condizioni in cui vivono questi ragazzi in casa famiglia? Ovviamente per il fatto stesso di stare in casa famiglia hanno un'esperienza dolorosa alle spalle e le esperienze sono molto variegate. Spesso i ragazzi stranieri vengono da lunghi viaggi, dalla fuga oppure l'abbandono del proprio paese, della propria famiglia. Ci sono i ragazzi penali invece che sono in misura cautelare oppure invece che scontare la pena in carcere la scontano nella casa famiglia. Ci sono vicende familiari molto dure alle spalle, quindi da un lato una casa famiglia rappresenta naturalmente qualcosa che non va per il fatto stesso che ci sono. Quella che ho conosciuto io è stata un'esperienza di arricchimento, secondo me, sia per loro che per me anche, molto dura perché la vita in una casa famiglia è difficile la convivenza, è difficile il rapporto con gli operatori, è difficile gestire la rabbia sacrosanta, devo dire, che questi ragazzi si portano dentro. Nonostante questo mi sembra un'esperienza e un istituto positivo, invece dico positivo perché andrebbe finanziato invece che tagliato come avviene invece negli ultimi anni. Ecco, proprio in questo senso volevo chiederti quanto è importante il ruolo dello Stato, ci sono anche associazioni che collaborano, come funziona? Il ruolo dello Stato dovrebbe essere fondamentale, come quello del comune, della regione. Devo dire che negli ultimi anni le condizioni in cui le case famiglie si trovano a lavorare sono sempre peggio, perché naturalmente si taglia lo Stato sociale, taglia i servizi. Nonostante che le case famiglie funzionino, è un'istituzione che in qualche modo funziona ed è un'ottima alternativa al carcere o ad altre cose inutili. Quindi da questo punto di vista è doppiamente un peccato, perché non si dia nemmeno in vita una cosa che non funziona, si taglia una cosa che funziona e funziona bene, sì, difficile sì, ma funziona bene, e molto è legato a questo, al lavoro di cooperative, diciamo, che stanno tra il privato sociale e il pubblico, che spesso con costi molto bassi, con dei tagli molto forti, nonostante tutto riescono a tenere in piedi ancora questo servizio, che è abbastanza eroica o da trincea, insomma. Beh, la situazione, sì, immagino. Sì, sì, sì. Senti, che tu sappia, quante sono le strutture di questo tipo e quanti ragazzi ospitano? Su Roma non lo so, so che sono tante, sono molto variegate, nel senso che ci sono quelle di vocazione religiosa, ci sono quelle invece laiche come quella dove sono stato io, che sono legate semplicemente al comune. I ragazzi sono migliaia sicuramente. Oggi la prevalenza è di ragazzi immigrati, i cosiddetti minori stranieri non accompagnati, cioè ragazzi che arrivano qui senza avere in Italia parenti o familiari. Spesso devo dire che ci sono reti di trafficanti internazionali che sanno questa cosa e di fatto per utilizzarli nel lavoro li fanno arrivare in queste condizioni apposta in Italia, perché sanno che poi verranno ospitati dentro le case famiglie. Quindi cioè, il mondo è abbastanza, diciamo così, complesso dietro le case famiglia, però insomma dovrebbero, diciamo così, continuare ad esserci. Negli ultimi anni so che molte sono state chiuse, mm-hmm, proprio per le difficoltà, i tagli che dicevamo prima. Sì. Questa qui, il Casa Felix, che è aperta dal 97, quindi insomma i ragazzi ne ha visti passare in questi anni, ancora riesce a stare in piedi, insomma. Tu sei stato all'interno per un anno, hai seguito questi ragazzi, come hanno vissuto questa esperienza? Con loro il rapporto prosegue, nel senso le riprese sono finite, io comunque ho sviluppato ormai un rapporto di amicizia con loro, quindi anche se le riprese sono finite, loro sono usciti dalla casa famiglia, sono diventati maggiorenni, continuiamo in qualche modo a tenerci in contatto, a vederci. Devo dire, io sono stato fortunato, loro sono stati fortunati ed io sono stato fortunato, nel senso che ho trovato dei ragazzi molto disponibili, difficili, arrabbiati, ma molto disponibili a modo loro, in cui dei 17 anni possono farlo naturalmente, molto disponibili a farci raccontare e a raccontarsi e a mettersi in gioco in un'esperienza che veramente è un lavoro che non ha avuto filtri. Io non ho avuto nessuna forma di pressione o di censura né da parte della casa famiglia né da parte dei ragazzi stessi, e contemporaneamente credo che anche loro sono stati fortunati perché hanno trovato una persona che per un anno e mezzo gli ha dedicato attenzione, curiosità e voglia di renderli in qualche modo protagonisti della loro stessa storia, che è poi la loro vita, insomma. E questo, quindi, questo periodo ha funzionato, l'incontro ha funzionato. Sì. E questo periodo in casa famiglia per loro cosa ha significato? È stato importante? È stato formativo? Che tipo di vita è? Io credo che la telecamera nel tempo, nel senso che poi ovviamente ci sono stati tanti passaggi, magari c'è stato un primo momento dove la presenza di una videocamera dentro la casa famiglia tendeva a renderli un po' esaltati, ad un po' esagerare, diciamo così, come possono fare degli adolescenti davanti ad una telecamera. Poi invece piano piano nel tempo si sono abituati, ci siamo conosciuti meglio, siamo diventati amici, e a quel punto io credo che l'esperienza del documentario gli abbia dato valore, nel senso loro si sono sentiti che non sono solo cose da buttare o ragazzi da mettere a Casal del Marmo, insomma nel carcere minorile. Quindi gli ha dato un valore, perché qualcuno gli ha chiesto: raccontate la vostra storia. E questo penso sia stato formativo, e spero che sia un qualcosa che, come ha lasciato a me un'impronta nella mia vita indelebile, la lasci anche a loro. Mi sembra di sì. Questo anche al di là del documentario, dico, ovviamente. Sì, sì, no, anche infatti era quello il senso, insomma, rispetto alla casa famiglia. Senti Emiliano, che percorso avrà o ha avuto il documentario? C'è un calendario di proiezioni? Avrà passaggi televisivi? Parteciperà a altri festival? Allora, noi stiamo naturalmente lottando per avere o una o tutte queste cose, nel senso abbiamo avuto l'anteprima a Firenze al Festival dei Popoli a fine novembre. Da quel momento lì stiamo sia cercando altri festival, ma soprattutto all'estero a questo punto, per cercare di, lo sai meglio di me, la difficoltà di un documentario in realtà non è nemmeno tanto farlo, ma è farlo vedere. Certo. E adesso, oltre ad altri festival, stiamo cercando di avere una prima programmazione di proiezioni, di presentazioni tra Roma e Milano, per ora stiamo soprattutto lavorando, anche se ancora non ci sono date certe, e poi sulla base di questo sperando in un passaggio di televisivo. Questo è l'ultimo momento. Avete un luogo internet di riferimento? C'è il sito Il Diario di Felix, diariodifelix.com, dove c'è il trailer, e piano piano stiamo anche caricando dei materiali extra, ci sono le foto, insomma c'è un po' tutta quanto l'esperienza del documentario. Emiliano, io ti ringrazio, ci risentiamo presto magari. A voi. Spero, lo spero. Va bene, grazie. Ciao, a voi. A presto. Ciao, ciao, ciao. Da una puntata d'archivio della trasmissione radiofonica Visionari, l'intervista al fotografo Emiliano Mancuso, scomparso lo scorso settembre, sul suo documentario Il Diario di Felix, che è in programmazione alla mostra Emiliano Mancuso, una diversa bellezza, Italia 2003-2018, al Museo di Roma in Trastevere, dal 13 giugno al 6 ottobre 2019. Con Chiara Valenti Omero, direttrice della 20ª edizione di Shorts International Film Festival a Trieste dal 28 giugno al 6 luglio 2019. Chiara, ben trovata. Grazie, ben trovati a tutti voi. Da quest'anno, per dire la verità, co-direttrice, perché ho al mio fianco anche Maurizio Di Rienzo. Che oh, Maurizio Di Rienzo! Sì! Dopo tanti anni di collaborazione, quest'anno è diventato co-direttore. Ecco, l'abbiamo promosso, quindi condivido. Riepiloghiamo dalle origini per chi non conoscesse il festival. Ci racconti un po' la storia?